24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Mi è impiegato un mese per capire la storia del passero e del tacchino e dei bersani, già. L'ha capita? Farò un master in bersanese. Cari italiani, qui non è più tempo per passeri e tacchini, qui è tempo per uomini forti che devono prendere in mano la situazione, donne forti che devono prendere in mano la situazione, se no è un disastro. Questa è la verità. Sono le 6:35 minuti, buongiorno e ben ritrovati a 24 mattino. È venerdì, voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè è tornato lì, puntuale alla sua regia. E allora possiamo aprire il nostro bar? Sì, il nostro Parlamento che apre ufficialmente. Il caffè volentieri a tutti quanti. Forza, forza. Eccoci gente, qua. Accorrete al Parlamento. Abbiamo barman generosi come Santa Claus. Eh sì, li paghiamo noi e con quello che paghiamo. Nel nostro Parlamento. Storto come il dottor House. Che è insediato e non c'è il governo, cioè c'è il governo, ma bisogna fare un nuovo governo. Però insomma, il Parlamento intanto funziona, funziona tranquillamente. Allora, intanto troviamo nel nostro bar. Voglio salutare, ben ritrovata Vladimir Luxuria, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Che poi è già tutta pronta perché so, ormai lo lanciamo, no? Il suo settimanale gastronomico fuori di gusto, quando è la domenica, giusto? La domenica alle 11, non alle solo 11. Gastronomico, diciamo alla scoperta di tutti i piaceri che ci può dare il nostro bel paese, anche da un punto di vista culturale e paesaggistico. Sulla sette. Voglio salutare anche il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni, buongiorno Massimo, che gongolerà sicuramente, perché quando ho visto la notizia che ha mandato in groia ad Aosta, no? Che vogliono mandare in groia, ho immaginato a Libero. La redazione di Libero su Ingroia, cioè Ingroia d'Aosta, l'ha mandata d'Aosta. Sai com'è? Una pizza buona della giornata. Sai com'è commentato Ingroia? Vabbè, non so sciare, farò delle passeggiate estive. Così veramente l'hanno raggiunta al telefono, ha detto vabbè, Ingroia d'Aosta effettivamente sembra un po'. Vabbè, partiamo dalle cose un po' più serie. Sapete, il secolo XIX ha fatto un resoconto, sapete, il quotidiano di Genova, dell'incontro di Beppe Grillo con Napolitano. Oh, De Manzoni, pare che Beppe Grillo abbia zittito due volte Napolitano, ha iniziato a inondarlo di parole. A un certo punto racconta che il secolo, che Napolitano gli ha detto: sì, vabbè, ma qual è il suo presidente? Cosa mi propone? Ma lei non si i nomi non contano, lei ci dia il governo. Che Napolitano gli ha detto: senta, guardi, il governo si dà, il premier si incaricano dei nomi, non è che io posso. Insomma, pare sia andata un po' così, un po' un incontro scontro, De Manzoni. Non so se sia vero, ma è verosimile, cioè, Grillo logorroico, Napolitano insomma ha il suo aplomb e i suoi riti. Immagino che tra i due non sia stato proprio un dialogo tra... No, non molto. Anche se quelli che ti si capisce al volo. Anche se Beppe Grillo pare sulla soglia dell'uscita abbia detto: guardi che lei è molto più sveglio di quanto sembra, non la chiamerò mai più Morfeo. Sai che lo chiama Morfeo? Sì, questo l'ha detto. Insomma, comunque si andrà un incarico per Bersani, un incarico di poco tempo, non so, Vladimir Luxuria, qua facciamo il pronostico, dai, Bersani ce la farà oppure no? Tanto è la domanda che ci facciamo tutti i giorni, gli italiani si svegliano con questo ormai, ce la farà? No, intanto vabbè, Grillo ha un po' un senso di gratitudine nei confronti di Napolitano, soprattutto dopo che Napolitano ha difeso Grillo quando era stato definito un clown insieme a Berlusconi dalla stampa tedesca, quindi un po' forse su questo ha detto non è più Morfeo, eccetera. Però certo il confronto tra Grillo e Napolitano è stato uno shock per lui, perché Grillo non è molto abituato al confronto, è da molti mesi che lui è abituato a dire la sua e ad avere un gruppo che diciamo si appiattisce su quello che dice lui, quindi non è molto abituato anche all'idea di qualcuno che gli faccia una domanda o che mette in discussione le sue opinioni, dovrà farsene comunque una regione, visto che ormai il suo movimento è un vero e proprio partito. Infatti che... voleva andare lì e dire uscire col governo, cioè uscire col governo, no. E pare che l'abbia zittito Napolitano dicendo ma lei ha la maggioranza. Ieri sentendo tutte le delegazioni era molto divertente, perché Bersani, che sembrava altro che Tacchino, sembrava la gallina che si sente aquila, cioè quello che ha vinto le elezioni, dice ah, noi siamo i più forti, cioè, non sapendo invece in realtà non ci riesce da solo anche a fare il governo. Poi là, dalla parte invece c'era la Lombardia, dall'altra parte dice no, siamo noi i più forti, quelli che abbiamo avuto la maggioranza numerica. E che invece non è neanche vero, non è neanche vero, perché mettendo dall'altra... i voti all'estero ha preso il PD il numero di voti maggiore. Dall'altra parte addirittura l'agnello Berlusconi che invece dice no, siamo noi quelli buoni che invece vogliamo la Concordia, eccetera. Io sinceramente, secondo me, più che un analista politico ci vuole Solange, ci vuole un chiromante per capire poi la come andrà a finire. La Concordia, De Manzoni, devo dire, il nome di Concordia forse non è stata l'uscita migliore di Berlusconi. No, governo Concordia. No, comprendi Schettino, no. Infatti poteva scegliere. Certo che stiamo perdendo tanto di quel tempo, 25 giorni sono passati, 25 giorni. E ci sarebbe bisogno di un governo come il pane, basta pensare a cosa sta combinando Monti nel frattempo, guardate quei fucilieri, adesso ne parliamo. Ma tra l'altro Bersani, ho letto da qualche parte, tra 4-5 giorni tornerà da Napolitano dopo l'incarico presumibile, per capire se ma come 4-5 giorni, ma io capisco, ci vogliono i tempi, non è che uno in 4 minuti fa le cose, ma qui a frotte di 4-5 giorni passano le settimane e non succede nulla. Nulla succede, non è una situazione come 5 anni fa, non è una situazione istituzionale normale, cioè, ma si accorgono che c'è la crisi, si accorgono che la situazione che è Cipro è poco lontana da noi, voglio dire, niente, i tempi istituzionali sono sempre questi. Intanto sì, visto che ha introdotto la questione dei Marò, no, ma prima vi voglio far sentire questa. Ieri avete visto, io no, però Santoro, Travaglio, ha chiamato Grasso, ha fatto, questo l'ho già sentita, che uno che chiama Santoro in diretta, mi sembrava e sentite Grasso arrabbiato con Travaglio, sentite. Va bene, presidente, la ringrazio, le faccio il mio in bocca al lupo, il guanto è lanciato e quindi adesso Travaglio dovrà, vi faccia sapere pure il luogo, il giorno della settimana e cose, lui vedrà. Non c'è nemmeno qualcuno che potesse magari così poter replicare. Assano, non si può piacere a tutti, lei ha già dalla sua parte tutte le televisioni e tutti i giornali, permetterà che ci sia almeno uno. Insomma, Grasso ha chiamato dicendo Travaglio mi infama eccetera, ma la vera parte interessante è che ha detto voglio un confronto in TV con Travaglio, e Santoro gli ha detto vabbè venga qua, no, non c'è tempo, dobbiamo farlo subito, non posso aspettare una settimana che è tardi, che praticamente ha detto che diventerà il presidente del Consiglio in diretta. L'aveva già detto ieri, praticamente. Si è tradito, no, dobbiamo fare in fretta che qui queste accuse non attendono, non possono aspettare così tanto, ma che accuse, De Manzoni, voleva dire mi danno l'incarico tra 3 giorni e dobbiamo fare prima o no? Dobbiamo chiarire prima, esatto. No, noi infatti oggi abbiamo tirato Grasso che corre, questo in un nel giro di pochissimo tempo da pensionato si è ritrovato a fare la seconda carica dello Stato per ragioni misteriose, una serie di circostanze, e adesso è candidato sia a fare il Premier che eventualmente anche il successore di Napolitano, Quirinale, è in corso anche per il Quirinale, infatti, libero Grasso che cola, titolo di prima pagina. Vladimir Luxuria, che effetto fa di un Grasso che chiama Santoro e poi dice no, ma chiariamo subito, abbiamo tempo 3 giorni che poi io non vorrei tradire le aspettative di Grasso, mi dispiacerebbe. Ma insomma, e non vorrei neanche far la parte di quella che si appiattisce sulle previsioni di Santoro, però se dovessi scommettere tra un incarico dato come Premier a Grasso e un incarico dato come Premier a Rodotà, che è quello che ha indicato Santoro, forse oggi come oggi secondo me avrebbe più consensi Rodotà, allora, che verrebbe visto come un esterno anche momento, del Movimento 5 Stelle. È il momento del Toto Premier, allora Vladimir Luxuria dice Rodotà, Massimo De Manzoni da Libero cosa dice? Ma il il Movimento 5 Stelle non voterà mai nessuno, né Rodotà, né, cioè non, l'hanno già detto che non votano. Per fare un governo ci vuole uno che abbia anche il consenso del PD. Il tuo nome? Del PDL. Del PDL, no, no, sì, PDL. Anche del PDL. Eh beh, sì, no, no, no, il non governo Rodotà concorre. Non è sgradito al PDL, secondo me. Beh, Rodotà, ex parlamentare del PD, cioè del PD, no, del PC. Non lo possono vedere. Vabbè, insomma, che cosa vuole che De Manzoni? Un nome, uno che... No, Grasso rischia di essere un nome vero, perché invece su Grasso Berlusconi probabilmente... potrebbe anche dire di sì. E infatti Antonio Ingroia, che tre giorni fa era qua ai miei microfoni alle 8:40 quando decideva ancora il CSM eccetera, sentite Antonio Ingroia la stoccatina che ha fatto su Grasso. Si sa che io non risparmiai critiche e infatti mi ha colpito il fatto che Berlusconi sia stato fra i primi a scattare in piedi ad applaudire una volta giunta la conferma dell'elezione di Piero Grasso. Eccolo lì De Manzoni, Berlusconi è stato il primo a scattare, ha detto il passato è passato, però faccio notare che Berlusconi quando hanno eletto Grasso è scattato subito, Vabbè, si chiamano molto. Sì, esatto. È tutta invidia questa. È tutta invidia. Ricordiamo che Berlusconi ha voluto anche tra i suoi ministri Di Pietro un po' di tempo fa. Ma infatti ce l'ha così tanto Pensate Ingroia che ce l'ha con Grasso, adesso lo vede al Senato, forse Premier, forse al Quirinale, lui ad Aosta, no? Una roba, cioè, non, è incredibile, non gli passerà più questa, come si suol dire. E il traffico, poi entriamo alla segreteria telefonica, poi parliamo anche dei Marò, gran bella figura d'Italia, i Marò. Consiglierei per la Presidenza della Repubblica il nostro caro comandante Schettino e completiamo il disastro di questa povera Italia. Sono anziana, ho quasi 87 anni, con 470 di pensione, 470. Con l'IMU, la miseria che viene avanti, cari, bisogna cambiarlo l'euro ed è sta rovina del mondo. Un giorno che ne avrei tante da dire, non ho neanche fiato. Facciamo un bel carico dei nostri vecchi parlamentari e li mandiamo tutti a Cipro. Se fossi un parlamentare di destra e sinistra e vedessi un grillino che mi tratta come un appestato o peggio come un ladro, molto probabilmente lo prenderai calci in culo. Volevo indicare tre nomi per un possibile presidente della Repubblica: Adriano Celentano, Gino Paoli, Michele Placido. Ce l'ho io il nome per il Quirinale, Antonio Pennacchi. Dai Antonio Pennacchi for president. Chiamo dalla provincia di Bari, da Gioia del Colle. Io porterei tutti i politici in campagna a una bella giornatina di lavoro per capire quanto si impiega per guadagnare le 30 euro al giorno e tornare a casa soddisfatti di aver fatto almeno una bella giornatina e poter mettere sulla tavola qualcosa da mangiare. Grazie. Ma continuate a dire che i grillini non capiscono un cazzo e voi ci fate pure la corte. Ma siete proprio di sinistra, continuate a fare la corte agli ignoranti. Ma siete proprio la razza di ignoranti. Mandate tutti a fanculo. Caro Milan, non è che sono arrabbiato, sono molto incazzato. Comunque sia, la colpa è sempre nostra. Noi siamo comunque molti di più dei politici. Una sberla per uno, un calcio in culo, non sarebbe la cosa giusta? Oppure, meglio ancora, avanti con delle badilate di merda. Noi italiani ci devono prendere per il culo fino alla morte. Allora, questi sono gli umori, ragazzi, siamo con degli umori, e queste sono le cose più da educande, devo dire, sia Vladimir Luxura che Massimo De Manzoni. Se volete il numero per la segreteria è sempre il solito, è 02-4652-4492, poi ve lo ridiamo. Allora, Marò che guaio, Marò che guaio De Manzoni, che figura abbiamo fatto, li abbiamo rispediti, c'è il ministro degli esteri Terzi intervistato oggi alla Repubblica, ha detto non mi dimetto, che problema c'è, no non mi devo dimettere, abbiamo avuto l'assicurazione, non c'è la pena di morte, non rischiano la pena di morte. Ma guarda, uno non ci crede, cioè, no, veramente quello che hanno combinato con questa vicenda è da sbalordire. E per fortuna che questo era il governo che doveva ridarci la dignità internazionale distrutta da Berlusconi. Adesso non ci ridono più dietro, no, sghignazzano adesso. Cioè, vabbè, è una cosa diversa, però qui è una cosa diplomatica. No, cioè, come una cosa diversa? Non è una cosa diversa. Questi sono rapporti internazionali, questi è come ci si comporta al mondo. Noi abbiamo fatto rientrare una nave che era fuori nelle acque internazionali, gliele abbiamo riconsegnate. Abbiamo fatto portare giù dei militari in servizio dal nostro suolo nazionale, perché le navi sono suolo nazionale. Sì. Li abbiamo lasciati lì a marcire per un anno, balbettando e senza trovare uno straccio di alleanza in giro, neanche dalla UE, dalla NATO. Questa era l'emissione NATO. Sì. Senza che nessuno dicesse niente in nostro favore. Glieli abbiamo portati via sotto il naso come se fossimo dei ladri, e siccome ci hanno scoperto adesso hanno protestato un po', adesso gli restituiamo devo dire che è una roba, non so Vladimir Lussura cosa ne pensa, è una roba gestita come dei peracottari, ecco, diciamo la verità, questo è dall'inizio. Perché anche il fatto che durante proprio le elezioni, durante proprio il periodo di campagna elettorale, Monti si sia fatto fotografare con i Marò che erano arrivati come grande successo dell'Italia, è suonato anche a tanti un po' come una specie di spot che lui si è fatto in maniera, secondo me, molto poco leale da questo punto di vista. E poi, cioè, ma come che si dice? Prima e li abbiamo fatti rientrare a Natale e poi li abbiamo restituiti. Allora all'epoca non c'era il sospetto sulla pena di morte, cioè allora non si è tirato fuori tutta la questione del diritto internazionale. Poi dopo vengono fatti ritornare, ovviamente tutte queste operazioni sono anche operazioni di anche un notevole costo economico, insomma vengono infatti anche, credo che delle associazioni di consumatori si erano anche un po' arrabbiate un po' su tutte le spese che sono state sostenute per questi andirivieni. E poi adesso invece dopo che è stato detto che l'India, il diritto internazionale, eccetera, eccetera, adesso si restituiscono, ma a me mi puzza molto invece di accordi commerciali. Ma certo, ma infatti il ministro India è la I di BRIC delle famose Infatti il ministro Terzi potenti. Il ministro Terzi, Repubblica, lo dice, ma poi c'era il nostro ambasciatore un po' in difficoltà, e comunque non li mandiamo allo sbaraglio, non rischiano la pena di morte. Oh, De Manzoni, questo è il nuovo mantra, tranquilli, non rischiano la pena di morte. Ha giurato il governo. Lo Stato italiano, promessa di l'ambasciatore, e questa è la figuraccia, è valorditivo. Cioè, io non mi azzardo a dire che è il peggior governo della storia repubblicana per il solo fatto che non sono abbastanza vecchio da ricordarmi. Adesso addirittura. Questa è stata una sono figuraccia. Sono venuti come salvatori della patria. Tutti i parametri economici dopo un anno di governo Monti sono peggiorati. Tutti, non ce n'è uno che sia migliorato. L'unica cosa che ci dicevano è ma adesso non ci ridono più dietro all'estero come facevano prima. E guarda qua che figura. Questa è una figuraccia. C'è un'unica cosa che dovrà ammettere Berlusconi, che la giustizia italiana funziona meglio di quella indiana. Forse anche di quella del Nepal. Comunque, cari Marò, state tranquilli. Presto tornerete con una bella licenza per rivotare. Tanto qui in Italia si vota ogni 6 mesi. Questa è l'unica speranza. Ogni tanto ce li rimandano qui 2 mesi perché bisogna votare e poi dopo li rispediamo in India. Io, se fossi in loro, diserterei e chiederei la cittadinanza indiana. Almeno un minimo di rispetto si può fare. Vabbè, chiudo con un sorriso, anche se c'è poco da ridere. Vi ringrazio, Vladimir Lussura. Grazie per essere stata con noi. Così come Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Noi andiamo al giornale radio e ci troviamo dopo le 7 per la rassegna stampa. Eccoci qui, le 7:20 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, vi siete aggregati ora, siete ben arrivati comunque, nonostante i temerari siano quelli che si uniscono a noi alle 6:30 e ci seguono fin dall'inizio, ma siamo pronti a leggere i giornali ora insieme a voi. Vi ricordo che parleremo ovviamente di politica, di quello che è l'attesa per queste consultazioni che sono finite, oggi forse Napolitano darà l'incarico, un primo incarico a Bersani. Avremo con noi due esponenti del PD e del PDL che sono anche amministratori, il presidente dei comuni del Rio, presidente e sindaco di Reggio Emilia, e poi con noi il sindaco di Pavia, invece Cattaneo, per il

Ma vedo che il Paese avrebbe bisogno tanto di prendere decisioni, di mettere in campo delle risposte alle grandi attese che ci sono, e oggi l'economia e il lavoro sono le tematiche centrali. Abbiamo la fortuna di fare i sindaci, giriamo per strada e la gente ci ferma, abbiamo un contatto diretto ogni giorno, e veramente questa fase di stallo rischia di lasciare irrisolte grandi tematiche di cui questo Paese ha bisogno, riforme. E quindi non la vedo molto bene. Lei come, lei come la risolverebbe? Così una sua ricetta, una sua idea ce l'avrà, no? Ma io credo che il Capo dello Stato, vabbè, legittimamente in questa fase darà il mandato probabilmente a Bersani o forse una figura istituzionale che legittimamente farà poi tutte le esplorazioni possibili. Io però metterei davanti cosa c'è da fare, quindi di cosa questo Paese ha bisogno. 6-7 punti da fare tutti insieme, nel senso che una volta appunto definiti i punti poi si trova una convergenza. E io auspicavo, uso un po' il passato perché credo che sia una possibilità purtroppo un po' remota, che poi attorno a questi punti sul cosa fare si trovasse una convergenza, verosimilmente tra le forze più importanti. Cioè, PDL, lei voleva una convergenza. Però su dei punti programmatici chiari che venissero prima dell'alleanza, ecco. Sì, sì. Volevo lavorare su questo concetto. La vedo un molto po' difficile, concreto. La vedo un po' difficile, almeno Bersani l'ha detto anche chiaramente. Sindaco del Rio e presidente del Rio, la domanda, se vuole, declinata sul fronte Partito Democratico, intanto le chiedo, secondo lei, se Bersani ha davvero queste chance oppure no. Che vuol dire l'esplorazione? Cioè, mi sembrano un po' tutte cose che gli italiani, per carità, sono istituzionali ma faticano un po' a capire. Non sembra abbastanza chiaro che i numeri non ci sono? Ma sì, sulla carta è chiaro, è anche vero però che il risultato elettorale va rispettato, ed è vero che se si vuole, come molte forze politiche dicono, ridare centralità al Parlamento, è legittimo attenderci che il Parlamento prenda le sue decisioni, cioè che dia o no la fiducia su punti limitati. Quindi mi pare che questo mandato esplorativo possa avere un vantaggio, se vi sarà, ovviamente, dipende molto. Sì, chiaro. Quindi non mettiamo a nessuno in bocca cose che non ha ancora fatto, men che meno al Presidente della Repubblica, ma però diciamo che alla fine questa esplorazione può servire a ridare centralità alle decisioni del Parlamento e anche a far assumere a ognuno le sue responsabilità. Come diceva giustamente il mio amico Cattaneo, c'è un Paese che chiede delle risposte a delle domande molto urgenti. Io vorrei elencarne due o tre: il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, il tema se verrà applicato o meno la TARES, rischiamo di avere i rifiuti per strada tra un paio di mesi per una mancanza di liquidità delle aziende. Abbiamo il tema di come applicare le revisioni della spesa, la spending review nei comuni, che hanno determinato gravissimi problemi di bilancio. Ci sono decisioni, l'aumento dell'IVA, insomma ci sono questioni molto molto serie, molto urgenti, che riguardano la vita dei cittadini e delle imprese. Noi ieri ci siamo mobilitati come sindaci con tutte le forze imprenditoriali, le famiglie, il terzo settore, le cooperative, c'era tutta l'Italia ieri a Roma, e questa pressione ha determinato un'accelerazione nei processi. No, ma che ci sia la necessità di un governo, tutti sono abbastanza d'accordo. Il problema è come trovarlo. Se ci si sono tre forze, ognuna delle quali per motivi diversi non vuole stare d'accordo con una delle altre due, come... Ma credo che la questione sia vada vista con molta semplicità. Cioè è evidente che chi ha ottenuto la maggioranza dei seggi sia al Senato che alla Camera in maniera molto visibile e maggioritaria, al Senato molto meno. Chi ha ottenuto la maggioranza dei seggi alla Camera e al Senato ha diritto, credo, a provare a esperire un tentativo e a fare delle proposte al Paese. Se il Parlamento ritiene che queste proposte non siano sufficienti, o chi le propone non sia sufficientemente garante, diciamo così, di una terzietà, si ripercorrerà un'altra strada, sì, certo, mettendo al centro i problemi. Quindi sono due passaggi che io credo, l'unica raccomandazione che farei alle forze politiche, fare in fretta. Perché davvero queste domande sono sospese da troppo tempo. Senta, le chiedo, quando lei parla di responsabilità, perché adesso c'è questa idea, anche a dire, insomma, Beppe Grillo e il suo movimento cosa vogliono dopo che hanno ottenuto tutti questi voti? Non possono sempre solo distruggere, però non mi farà anche lei che dà la responsabilità agli ultimi arrivati della situazione in cui siamo? No, io non sono, non appartengo a coloro che scaricano la colpa della situazione italiana su Beppe Grillo. Il fenomeno di Grillo è un fenomeno politico che però nasce, credo, molto dalla inefficienza e dalla incapacità a decidere su alcune questioni essenziali del precedente Parlamento, oltre che da questioni di, come dire, etica pubblica e privata molto discutibili. Quindi credo che ci sia una colpa nella mancanza di risposte alle domande che il Paese poneva, e quindi legittimamente gli italiani poi scelgono anche di provare a ribaltare il tavolo, però mi pare che la caratteristica principale di Grillo sia quella di volere, come dire, rovesciare il sistema, non di cambiarlo dall'interno. Gli appelli alla responsabilità istituzionale, cioè di governo, mi pare che non avessero nessuna probabilità di essere accolti allora, non ce l'hanno oggi, quindi non correrei dietro francamente ai grillini. Ecco, questa è un po' un'altra tematica su quale anche vorrei coinvolgere Alessandro Cattaneo, voglio ricordare ancora sindaco di Pavia del Popolo della Libertà. Lei questa rincorsa ai grillini come la vede? Lei che ha cercato anche e vuole cambiare, fa parte di quel Popolo della Libertà, di quei dirigenti giovani che prova e vuole tentare di cambiare un rinnovamento anche della classe dirigente nazionale, poi mi sembra che non ci sia riuscito almeno per il momento, no Cattaneo? Bisogna ammettere che il tema del rinnovamento è, come dire, quantomeno rinviato. Bisogna fare le battaglie, noi le abbiamo fatte e le continueremo a fare, le stiamo facendo all'interno, perché a un certo punto è anche giusto prendersi le proprie responsabilità, e quando arriva il tempo della campagna elettorale bisogna remare dalla stessa parte. Credo anche che più generalmente in Italia il tema del rinnovamento sia, come dire, in difficoltà, ma ne parlo pensando alla politica, ma non solo, anche alle professioni, insomma, veramente, probabilmente ogni tanto scherzando dico che se ci fosse un partito 30-40 avrebbe delle percentuali interessanti e trasversali, proprio perché è un tema in questo paese. Partito 30-40 di età dice, 30, partito 30-40, cioè questo è... Esatto, perché davvero è molto più grande di quanto si avverta questo tema di ricambio generazionale, che non è solo un fattore anagrafico, soprattutto di mentalità. Però è anche vero che chi in questo paese, e non parlo solo della politica, ha posizioni consolidate di potere veramente fatica a lasciare spazio a un nuovo modo di siamo un paese vecchio, questo sì. Sui grillini. Tenevo, ecco, io ho un atteggiamento molto serio, cioè non liquido come un fenomeno così di antipolitica, di distruggere tutto. Credo che vada analizzato come mai Beppe Grillo diventa il primo partito in Italia in un tempo anche relativamente breve, e credo che la risposta sia nell'incapacità dei partiti tradizionali soprattutto di dare delle risposte serie, vere, concrete e tempestive alle tematiche di etica, le tematiche anche di sobrietà della politica, di un approccio normale, direi, nel fare politica. La gente non ne poteva più e ha visto questa soluzione, giusto o sbagliata che sia, una soluzione che però adesso è di fronte alla possibilità di dover governare. Però sindaco Del Rio, le devo chiedere questo prima della pubblicità. Molti giornali oggi dicono, anche all'interno del Partito Democratico, lei è considerato, diciamo, più un renziano, ecco, vicino a Renzi, all'interno del Partito Democratico ci sono delle correnti comunque di chi pensa, se Bersani fallisce questo tentativo, che non è facile, va a sbattere, e il rischio anche per il partito è di andare di contro a una implosione. Queste sono le analisi, per esempio, oggi della Stampa o di Repubblica. Lei condivide? No, credo di no. Credo che legittimamente ci sia bisogno per il paese di provare a fare un tentativo, perché poi bisogna anche che parliamo in maniera semplice e tutti possono capire: si va alle urne subito e questa è la soluzione. Quindi l'alternativa è quella. Allora, è giusto che Bersani ci provi. Se Bersani non riuscirà, perché l'esito elettorale è stato quello che è stato e quindi i voti sono quelli che sono, è chiaro che si aprirà una discussione sul, diciamo così, su come affrontare una fase nuova del Partito Democratico, su come ritarare il messaggio agli italiani, perché è evidente che quando, come dire, non vinci, come questa volta, che uno dice non abbiamo perso, non abbiamo nemmeno vinto, quando non vinci non puoi pensare che la colpa sia degli italiani, devi farti delle domande e ti devi dare delle risposte adeguare il tuo messaggio. Dica la verità, so che non è forse il momento giusto, ma lei, ma quante volte pensa al giorno, se ci fosse stato Renzi, che errore che abbiamo fatto? No, guardi, io non sono abituato a guardarmi indietro, a vivere di rimpianti. Credo che il messaggio di Renzi fosse un messaggio che intercettava in maniera più diretta quella voglia di cambiamento radicale che poi si espressa nelle urne. Su questo mi pare che tutti ormai siamo d'accordo. Ma detto questo, punto a capo. 24 mattino. Eccoci qua, le 8:36 minuti. Allora parliamo di questa impasse politica. Con noi ci sono due amministratori, uno del Partito Democratico e il sindaco di Reggio Emilia Graziano Del Rio, che è anche il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e il sindaco di Pavia, invece del Popolo della Libertà, Alessandro Cattaneo. Fatemi salutare anche, ci ha raggiunto Alberto Forchielli, che è presidente dell'Osservatorio Asia. Buongiorno Forchielli e ben ritrovato. Sì, buongiorno, ma io con la situazione politica non c'entro niente. No, invece è presidente dell'Osservatorio Asia, imprenditore, e i nostri ascoltatori lo conoscono come un analista puntuto, uno che non ha peli sulla lingua se deve parlare della situazione politica. Prima, Forchielli, di arrivare a lei, volevo un attimo da Graziano Del Rio chiedergli questa vicenda dei pagamenti delle imprese, perché tutto, qualcosa si è sbloccato, mi sembra di aver capito, però intanto Del Rio, io ho usato questo termine, lo so, io sono poco istituzionale, ma ho come il timore che l'annuncio dei 40 miliardi per le imprese da parte del governo sia una super cazzola, si ricorda anche lei? Ecco, perché mancano i decreti attuativi e mancano dove si prendono questi soldi, capisce che non sono quisquiglie. Ci spieghi invece a livello comunale, siccome so che c'è una deroga al patto di stabilità, che cosa di concreto e di vero si può dare, se è vero, alle imprese? Si può dare subito 10 miliardi che sono in cassa ai comuni e che sono residui che i comuni hanno, e sono soldi dovuti alle imprese per le tantissime, più di 20.000 opere che sono in corso, che sono completate da poco tempo e che vengono bloccate in termini di pagamenti dalle regole del patto di stabilità interno, che quindi va cambiato, perché è una regola in sostanza che ci impone di avere degli avanzi di amministrazione, cioè di non spendere i soldi che abbiamo, quindi quello non è debito nuovo, è debito già presente. Sì, certo, 10 miliardi ci sono già. Però 10 miliardi ci sono, se Grilli, con cui ho parlato anche l'altra sera, il ministro, fa un provvedimento in cui dice che non ci metterà sotto la, come dire, il giudizio della Corte dei Conti effettuando i pagamenti dovuti alle imprese, noi siamo pronti a farli. Però ci vuole questo decreto. Se non fa questo decreto, e quindi voi rischiate di esporvi al rischio di denuncia alla Corte dei Conti per violazione del patto di stabilità, questi 10 miliardi si possono dare oppure no? Beh, noi li daremo comunque, questo deve essere molto chiaro, lo abbiamo detto con molta chiarezza in questi giorni, in queste settimane. Noi abbiamo pazientato a lungo su questa questione, perché abbiamo fatto un anno di sacrifici, abbiamo capito che bisognava aiutare il Paese a rimettere i conti in ordine. Adesso i conti sono in ordine, l'indebitamento netto è positivo, è assolutamente con indici ottimi, c'è l'avanzo addirittura primario come nessun altro Paese europeo, più o meno. Quindi abbiamo bisogno adesso di dare ossigeno, liquidità alle imprese. Quindi che vi esporrete anche eventualmente alle denunce della Corte dei Conti. Noi ci esporremo, però siamo fiduciosi che si segua una via più istituzionale, oggettivamente. Quindi poi ieri i presidenti di Camera e Senato ci hanno ricevuti, ci hanno garantito che nel caso il governo emanasse questo decreto avrebbe una, come dire, corsia preferenziale anche in assenza di un governo nuovo, e quindi non c'è nessun alibi, speranza, insomma. Certo. No, ma è chiaro. 10 miliardi ci sono. Allora, io vorrei arrivare per un attimo Alberto Forchielli. Noi spesso, Alberto Forchielli, che sul suo profilo Twitter, Forchielli, no, ci sono ancora i grillini che la saltano, la inseguono, perché... Perché? Ce l'hanno con me. Perché? Perché lei ha bastonato un po' duro a dire che sono un po' una setta, l'ha detto prima di Berlusconi, che sono un po'... Ma a parte questo, l'ho già detto, il progetto economico di Grillo è inconsistente, questo concetto di decrescita felice non esiste nella teoria economica, non è espresso nel blog di Grillo, anzi siamo già in decrescita, e la decrescita non è mai felice, perché poi con la decrescita non ci troviamo più i soldi per le scuole, per gli ospedali, cala la base imponibile, per cui Diciamo che o Grillo c'ha un trattato col quale è prossimo a vincere il premio Nobel per l'economia o è uno sbarellato totale. Io tendo per questa seconda ipotesi. Uno sbarellato totale. Uno sbarellato totale. Poi dopo arrivano le critiche. Poi dopo la critica. Vabbè. Grillo uno sbarellato totale. Ecco, totale. Totale. Ho capito, però Forchielli, e invece il resto della politica, cioè i partiti tradizionali, perché molti hanno intercettato in Grillo quello che non vedevano più nei partiti tradizionali, di cui non ne potevano più. Sì, no, ma io sono un economista, per cui mi focalizzo su questo aspetto economico del futuro del paese. Poi tutte le altre istanze sui costi della politica, queste cose qui, io sono anche, le guardo con simpatia molte istanze dei grillini, insomma, capito? La casta, non ho nessuna simpatia per la politica italiana, per il mondo politico. La mia critica è sull'inconsistenza di un modello di sviluppo, del fatto che Grillo non è portatore di nulla di positivo sotto l'aspetto economico per questo paese. E invece il fatto, la politica secondo lei deve avere un governo? Cioè adesso ci si arrabatta a dire ci vuole un governo perché altrimenti tutto va un po' a catafascio. Sa che Cipro, lei so che è spesso in giro per il mondo anche in Cina, ma Cipro è un po' più vicina della Cina e qualcuno guarda Cipro con preoccupazione. Sì, sì, ma non è che con un governo mettiamo a posto i problemi di Cipro, capito? Il problema di Cipro è causato da una totale mancanza di visione geopolitica dei nostri eurocrati nord europei, perché sono riusciti a fare di un paese di 1 milione di abitanti, sono riusciti a farne una crisi sistemica, capito? Che si contrappone alla Russia, che ha fatto prendere il Nikkei. Questo trovo che sia, questo incapponirsi sui principi e sulla punizione ad ogni costo, capito, senza avere una visione geopolitica della situazione, è estremamente, è una cosa per voglio dargli un'idea, sia i cinesi che gli americani vedono questa leadership europea, la deridono, capito? Spesso lei ci dice, i cinesi quando mi incontrano mi dicono, sì, gli occidentali, quindi anche gli italiani, dicono che fanno 10 cose, per esempio ci sono gli 8 punti di Bersani, e poi mi chiedono, sì, ma di queste 10 cose che dicono, quante poi ne manterranno? Perché questo è il punto della credibilità poi della politica occidentale, o no? Sì, beh, loro sanno benissimo che in politica bisogna mentire, tanto più le cose vanno male, tanto più uno per essere eletto deve mentire. Ma adesso siamo passati al punto, diciamo, siamo oltre, ossia vedono questo strapotere nord europeo sull'euro, lo vedono quasi pericoloso, capito? Perché della Grecia, con la Grecia abbiamo rischiato di far cadere il mondo, con Cipro siamo di nuovo sull'ordine del precipizio, ragazzi, sono 1 milione di abitanti, in Europa ce ne saranno 500 milioni, sarebbe come se in America dicessero, capito, Albuquerque in Arizona è un rischio sistemico, capito? Voglio dire, è una roba, non è che possiamo far crollare il mondo ogni settimana su ogni pugnetta che viene fuori, capito? Cioè, a un certo punto bisogna che soprattutto i tedeschi capiscano che esiste un mondo complesso e che non possono andare in giro a spacchettare la gente, capito? Basta. Questo è molto chiaro anche nel linguaggio. Io vorrei tornare per un attimo ad Alessandro Cattaneo, il sindaco del Popolo della Libertà di Pavia. Sindaco Cattaneo, ma lei ci crede veramente all'idea di un governo di larghe intese, come ha detto Berlusconi? Cioè, com'è possibile? Adesso non vorrei usare quell'aggettivo che ha fatto arrabbiare molto, che ha detto Lucia Annunziata, no? Che siete, cos'è che ha detto? Impresentabili. Quello di Lucia Annunziata è stato un po' uno scivolone. Abbastanza. Insomma, rispetto per qualsiasi realtà eletta scelta democraticamente dal popolo deve essere rispettata, altrimenti in fondo si disprezza il popolo stesso. Ma ci credete davvero? Questo, possa... Ma io ci credo, come strumento, non come fine. Cioè non è che l'obiettivo deve essere quello di fare il governo di larghe intese, l'obiettivo deve essere quello di fare 6-7 cose che non sono rimandabili, rispetto ai quali non si può aspettare chissà che cosa. E quindi prima ci si mette d'accordo su cosa fare e dopo su quello si trova una larga intesa. Siccome Grillo mi pare che sia la forza che in questo senso ha chiuso totalmente ogni spiraglio, anche fortemente pregiudiziale, soprattutto verso il centrodestra, a questo punto l'intesa va cercata con chi il senso di responsabilità può avercelo in misura maggiore. Purtroppo però che anche Bersani continua a inseguire Beppe Grillo, insegue forse più che altro il suo desiderio di diventare premier, ma rischia a breve di sbattere con una grande delusione. Perché questa ostilità nei confronti di Berlusconi, che potrebbe essere l'unico modo delle larghe intese? Lei ne vede una possibilità? Perché Bersani preclude così? Ma non è ostilità, e credo che sia rispetto della volontà degli elettori. Abbiamo appena terminato una campagna elettorale facendo proposte alternative, è evidente che apparirebbe un tradimento della volontà degli elettori, perché anche il PD ha i suoi elettori, non solo Grillo, deve rispettare anche lui la volontà dei suoi elettori, e quindi la proposta iniziale non può essere altro che una proposta chiara e coerente con il messaggio che è stato dato durante la campagna elettorale. La politica, la fiducia nella politica si ricostruisce anche essendo coerenti con le proprie con i propri annunci, ecco, diciamo. Quindi questo è il primo passo. Poi io credo invece che la presenza del Presidente della Repubblica, la sua saggezza, impongano al PD, nel momento in cui arrivi una proposta istituzionale, impongano al PD di valutare qualsiasi soluzione senza pregiudizi per dare al Paese quelle risposte. Qualsiasi soluzione cosa vorrebbe dire, scusi? Vuol dire che se il Presidente della Repubblica propone un governo istituzionale che faccia alcune cose che concertate con altre, anche con anche il PDL, io non mi vergogno di questo. Credo che la cosa peggiore che possa fare il Partito Democratico è guardarsi l'ombelico, cioè pensare a speculazioni di breve periodo per poter andare rapidamente alle elezioni, per poter incattivire ulteriormente il paese in contrapposizioni. In questo momento al centro devono starci i problemi del lavoro, delle famiglie, delle imprese. Beh, questa è già come dire una tra virgolette apertura, nel senso a dire non guardiamo con vergogna appunto al fatto, se dovessimo arrivare a un governo istituzionale, anche ad aprire a istanze dell'altra parte politica, insomma degli avversari. Sì, ma questo anche perché, mi scusi, ma il problema è questo: noi veniamo da un anno e mezzo di governo tra virgolette di larga intesa, no? Il paese era sull'orlo del baratro, abbiamo chiesto alle famiglie e alle imprese dei sacrifici enormi, abbiamo messo in ginocchio gli enti locali con tagli impressionanti, quindi c'è un problema veramente, c'è una questione sociale che sta emergendo dopo questi sacrifici. Bisogna che tutto questo non vada disperso, buttato al vento per dei capricci interni o delle correnti o dei calcoli. Allora, non c'entra Matteo Renzi o Pierluigi Bersani. No, ma è chiaro, c'entra il paese. Io, Alberto Forchielli, so che lei già in passato su Berlusconi ci ha dato delle no, qui c'è il sindaco di Pavia, Cattaneo, uno dei giovani del Popolo della Libertà. Perché? Cosa c'è di male di Silvio Berlusconi che vuole rientrare in gioco? C'è un'altra cosa che voglio dire, adesso parlo io. Sì. I grillini continuano a buttarmi su il fatto che loro hanno come economista di supporto Joe Stiglitz, sì, premio Nobel dell'economia, e anche Grillo in un'intervista all'NBC americana ha dichiarato che Stiglitz è con lui. Allora io voglio chiarire, io e Joe Stiglitz siamo stati colleghi alla Banca Mondiale per 3 anni, quando lui era chief economist a Washington. Io so benissimo cosa pensa Joe. È nel filone dei neoliberal americani insieme a Krugman, adesso è professore alla Columbia, ma lui non ha mai scritto niente di decrescita felice, è una roba che non esiste. Secondo me, se loro insistono, si beccano una smentita e una querela da Stiglitz. Allora io gliel'ho fatto presente ai grillini questo su Facebook, sui Twitter. Sai cosa hanno fatto? Ha cancellato tutto. Cancellato quando io cosa? Sono tornato la mattina dopo per vedere, io ho detto ragazzi andate su Google, guardate, io sono stato in Banca Mondiale, lo sanno tutti, anche su Wikipedia, Joe Stiglitz, ci sono stati i colleghi, e quando gliel'ho detto, la mattina dopo mi sono svegliato e non c'era più la discussione, sono scappato, l'avevano tolta, Loro c'è anche sul blog sto fatto che giustamente dichiarato Grillo alla NBC. C'è un'intervista che sarà su YouTube, sì. Che Stiglitz è con noi. Stiglitz. Ma questo è matto, capito? È un milantatore, capito? Cioè dice che in realtà non ha mai, lei che conosce Stiglitz, non si sono mai sentiti. Ma non c'entra niente Stiglitz con la decrescita felice, ma che me lo facciano vedere, che lo vengano a dire. Questo usano i nomi degli altri, appiccicano le idee, capito? È una roba, la trovo anche, capito? Come italiano la trovo veramente una pesseria ideologica, capito? Qui siamo, insomma, capito? Stiglitz dice non l'ha mai conosciuto Grillo, non ha mai avuto niente. No, ragazzi, ricordiamoci, torniamo, questo vale. Mussolini nel 41, dopo Pearl Harbor, dichiarò guerra all'America. Ossia, cosa qui, c'entra? Siamo su questo filone intellettuali, capito? No, beh, adesso addirittura c'è una pazzia così. Vabbè, ma non ho capito di Berlusconi perché non potrebbe rientrare in politica, cioè dal punto di vista protagonista, chiedere cosa c'è di male Forchielli se chiede un governo di larghe intese, insomma, Berlusconi. Ma no, ma scusi, l'hanno già fatto, l'ha fatto cadere, capito? Beh, era un governo cosa tecnico. Cosa vuole, ma ormai non ci si può affidare di Berlusconi, capito? Dice una roba, ne fa un'altra, ormai è un personaggio inaffidabile, è inviso al mondo, i musulmani non lo possono vedere per i bunga bunga, gli indù uguali, i puritani americani non lo possono vedere. Lascia stare gli indù. Già un governo, basta, no? Vabbè, insomma la sua teoria su come l'ha chiamato, Bungastoni, vabbè Cattaneo non le faccio commentare questa di Forchielli perché ci fermiamo qui. No, però Del Rio, io ho 30 secondi, ma no, l'ho detto io che era una supercazzola quella a livello nazionale, ma lei teme anche lei che sia questa dei 40 miliardi un po' una fregatura, un annuncio, diciamo così. Sì, questo è il timore che abbiamo tutti quanti, perché noi continuiamo a dire una cosa semplice, facciamo le cose ordinarie in questo paese ogni tanto, le cose semplici. C'è una manutenzione semplicissima da fare, che è liberare i soldi in cassa ai comuni, sono pronti, sono lì, non sono nuovo debito. 10 miliardi. Le imprese ci diranno già grazie. Un po' di ossigeno ci sarà. Scusate, ma devo finire, se no sforo. Tra l'altro, tra poco Simone Spezia ha intervistato anche poco fa Staffan de Mistura, il sottosegretario agli esteri, per la vicenda veramente maccheronica e peracottara che abbiamo fatto con la vicenda, con la situazione dei Marò. Tra poco l'intervista a Staffan de Mistura. Con Nove in Punto, noi ci troviamo lunedì mattina alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. Quoa Executive Master in Banking. Informazioni su quoafinance.it. Vi ha presentato 24 mattino.